reportage. Droga in Europa. L'allarme arriva da Lisbona. Di Laura Bettini. Un fiume di turisti sfila tutte le ore su e giù per Rua Augusta. Passano compatti tra i tavoli dei bar all'aperto, i ballerini, gli artisti di strada, i vagabondi. Centinaia e centinaia di persone che sembra impossibile perdere, come invece accade quando la folla sfocia nella gigantesca ed elegante Praça do Comércio, la piazza che ha preso il posto del Palazzo Reale Ribeira, distrutto dal grande terremoto di Lisbona del 1755. È una grande piazza rettangolare a forma di U aperta verso il Tago, che a Lisbona ormai è quasi oceano, tanto che se anche non lo si sapesse che l'oceano è poco più in là, se ne riconoscerebbero l'odore e il vento sempre teso. Ne ho la riprova osservando le barche a vela che incrociano sul Tago mentre parlo con Maria Linda Montanari, analista dell'Osservatorio Europeo sulle droghe e le tossicodipendenze, che ha sede a meno di un chilometro da Praça do Comércio, a Caix do Sodré, proprio sulla riva del Tago. Un ufficio semplice ma con una vista sul fiume che tanti amministratori delegati del mondo invidierebbero. Le MCDDA, questo è l'acronimo inglese, è stato istituito nel 1993. Inaugurato a Lisbona nel 1995 ed è una delle agenzie decentrate dell'Unione Europea. Ha l'obiettivo di fornire all'UE e agli Stati membri una visione realistica dei problemi legati alla droga in Europa e una base solida di evidenze che supportino il dibattito sugli stupefacenti. Il nostro prodotto principale è il rapporto annuale sulla situazione del consumo delle droghe, dei problemi correlati, gli interventi in Europa, dove cerchiamo di vedere qual è appunto il livello di consumo. Il rapporto annuale dell'osservatorio verrà pubblicato, è già quasi pronto, verrà pubblicato alla fine di maggio e presentato all'inizio di giugno. Quello che appare è una situazione che non è in cambiamento rapido, ma con qualche innovazione. La droga che è più consumata, e in questo caso parliamo di utilizzo di sperimentazione, no? Perché uno degli indicatori principali che utilizziamo per vedere come base, per vedere il consumo, è il dato sull'utilizzo almeno una volta nella vita da parte della popolazione adulta, che significa la popolazione tra i 15 e i 64 anni. Quindi la droga, la sostanza più consumata è la cannabis. Il 22% della popolazione europea adulta ha utilizzato cannabis almeno una volta nella vita, che vuol dire circa 80 milioni di persone. Nell'ultimo anno naturalmente il consumo si riduce all'11%, alla cannabis segue la cocaina, l'anfetamine, mentre l'eroina, che è sicuramente la droga che provoca più danni, che ha più rischi per la salute delle persone, ha un livello di consumo, di prevalenza nella popolazione generale che è molto basso, ma il livello di danni che provoca naturalmente è molto più elevato. Il consumo è più concentrato nelle fasce giovanili tra i 15 e i 34 anni, dice Montanari, e c'è molta differenza tra i vari paesi, sia sulle sostanze che sui livelli di consumo. La cannabis è la più consumata in tutti i paesi, ad esempio, ma soprattutto in Repubblica Ceca. Tra gli stimolanti, la cocaina è la più diffusa nel sud Europa, le anfetamine e le metanfetamine nel nord e nell'est dell'Europa. Da cosa dipende? Da canali della criminalità o dai gusti dei consumatori? Quando si parla del fenomeno droga non esiste mai una risposta unica, no? Sicuramente il mercato influenza. La cocaina, per esempio, viene dall'America Latina, le anfetamine spesso sono prodotte anche in loco, specialmente per esempio le metanfetamine, che sono utilizzate in particolare nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, sono prodotte da laboratori domestici. Però sicuramente ci sono anche dei fattori di, come tu dici, di moda, no? E di influenza nel consumo tra pari, perché il consumo della droga, appunto, che è soprattutto sviluppato tra i giovani, no, tra la popolazione giovanile, è un fenomeno anche in cui l'influenza del gruppo è molto importante. E poi altri elementi culturali, sociali che messi insieme fanno sì che ci sia la predilezione per un tipo di droga rispetto ad un'altra. Probabilmente anche la crisi economica sta avendo i suoi effetti. L'autoproduzione di droghe, che è molto in voga, può essere una conseguenza della crisi, ad esempio. magari no. Magari anche in questo campo è arrivata l'autoproduzione come moda, soprattutto quando si parla di marijuana. La raccolta dei dati in questo campo avviene attraverso il punto focale nazionale, cioè un centro nominato dai governi di ciascun paese. La rete dei punti focali si riunisce in REITOX, che è il riferimento dell'Osservatorio di Lisbona. Nell'osservatorio ci sono poi diverse aree di studio che analizzano i dati di REITOX, prendendo in considerazione ad esempio il consumo di sostanze nella popolazione generale o studentesca, le malattie infettive, la mortalità tra i tossicodipendenti e quella relazionata al consumo di droghe. Un altro indicatore è quello ricavato dai pazienti in trattamento per problemi di droga. E questo è il campo specifico di Maria Linda Montanari. Quali tendenze ha notato in questo settore? Quello che abbiamo notato in questi anni, la raccolta dei dati è più armonizzata, diciamo, a partire dai primi anni 2000, è una diminuzione delle persone che entrano in trattamento per problemi relazionati con l'uso di eroina. E un aumento delle persone che entrano in trattamento per problemi relazionati con l'uso di cannabis. E ci siamo chiesti, abbiamo cercato di analizzare i motivi di questi cambiamenti. Ci sono diversi fattori che in questo caso giocano e che influenzano questo aumento. Uno è sicuramente il tipo di legislazione che è in vigore nei diversi paesi, per cui per esempio se prendiamo l'esempio dell'Ungheria, dove la maggioranza dei pazienti che vanno in trattamento per uso di droga, si parla del 78%, entrano in trattamento per problemi relazionati alla cannabis. Ma questo è perché ogni volta che un giovane viene preso a consumare cannabis, deve scegliere se avere una punizione di tipo amministrativo o non amministrativo entrare in trattamento, e quindi entra in trattamento, viene mandato obbligatoriamente in trattamento. Altri cambiamenti importanti. Si è visto per esempio che in alcuni paesi, ma sono fenomeni abbastanza anche localizzati per ora perlomeno, la eroina è stata un po' sostituita da altri oppioidi di tipo sintetico. Per esempio in Finlandia da anni i consumatori utilizzano buprenorfina, che in realtà è una sostanza che si usa come sostanza sostitutiva dell'eroina per curare, no, la dipendenza da eroina, ma in Finlandia per qualche fenomeno locale, no, si è diffuso questo consumo e viene utilizzata la buprenorfina. Estonia ha un problema molto elevato con il fentanyl, che è un oppioide sintetico e molto potente, che ha provocato molte morti negli Stati Uniti qualche anno fa e adesso anche in Estonia. L'Estonia è il paese con il più alto numero, la più alta percentuale di morti tra i giovani, no? Causate da overdose per fentanyl. I medicinali usati come droghe e le sostanze non ancora precisamente catalogate sono tra le principali preoccupazioni dell'osservatorio. Attualmente quello di cui si parla molto nel mondo della droga sono le nuove droghe, no? E in questo gruppo rientrano diversi tipi di sostanze. Quelle più diffuse sicuramente sono quelle chiamate legal highs, penso in italiano alternative legali. Le più comuni sono i cannabinoidi sintetici, che sostituiscono un po' la cannabis, no? Cioè rispondono alla domanda di cannabis ma a livello legale, e i catinoni sintetici che invece rispondono alla domanda di stimolanti, perché sono degli stimolanti. All'osservatorio esiste un sistema di allerta rapido, per cui i paesi, i punti focali dei vari paesi hanno degli esperti e delle reti a livello nazionale, per cui in modo veloce comunicano se esistono, se vengono scoperte delle nuove sostanze. Nel 2014 sono state individuate 101 sostanze in totale. Dall'inizio di questo sistema sono 450 le droghe che sono monitorate dall'osservatorio. Non con la pretesa di dettare legge ai paesi membri, ma di fornire loro e a noi cittadini europei le informazioni utili a decidere. Quello che facciamo è cercare di raccogliere le informazioni e descrivere quello che abbiamo, no? Per cui abbiamo per esempio una base di dati sulla legislazione sulla droga, che è aperta al pubblico e nel nostro sito website, dove viene analizzata la legislazione in ogni paese. Dopodiché noi non abbiamo nessuna indicazione o raccomandazione, no? Soltanto cerchiamo di descrivere e monitorare la situazione senza nessuna implicazione ideologica, ecco, voglio dire. Questo secondo me è estremamente importante quando si parla soprattutto di droghe, no? Perché spesso l'approccio è ideologico in tutti i sensi, no? Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.